Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Gianfranco Fabi. L'incontro di oggi è con Oscar Farinetti. Buongiorno Farinetti. Buongiorno signor Fabi. Eccoci qua. Oscar Farinetti è l'inventore di Italy. Italy, che però in radio come si fa a dire Italy per dire che cos'è Italy? Ma in questo momento credo che lo sappiano talmente in tanti che... credo che sia vedrai superfluo. Che la maggior parte dei suoi ascoltatori lo sa. Si dice Italy, ma si deve immaginare Eatali, cioè mangiare italiano, che è il marchio, il simbolo, la vetrina di questi negozi che ormai da quanto tempo... Il primo l'abbiamo aperto, abbiamo festeggiato in questi giorni il terzo anno, il primo aperto a Torino, all'Ingotto, il più grande, e poi altri negozi con questa insegna, con questo marchio, che hanno una filosofia di fondo. Sì, mi fa piacere che lei li chiami negozi, perché non siamo permalosi, tuttavia bisogna dire che Italy è qualcosina di più di un negozio. Beh, non è un grande magazzino, è un luogo di incontro tra i clienti, chiamiamolo clienti, tra le persone e il cibo. Le dico esattamente che cos'è, perché ci abbiamo messo 3 anni a scoprirlo, ma infine abbiamo trovato la definizione giusta di Italy. Italy è un ambaradan. Ah, un ambaradan. Infatti adesso facciamo la festa dell'ambaradan, che è il contrario del Ramadan. Come puoi immaginare, si mangia e si beve tutto il giorno, ma è un ambaradan virtuoso, nel senso che è un grande casino di belle cose. Descriviamo un attimo cosa c'è in Italy, cioè si può comprare del cibo, formaggi, salumi, latte, pane, tutto quello che serve per mangiare bene. Poi si può mangiare direttamente, si può istruirsi su che cosa si fa, si deve fare per mangiare bene, e poi cosa si trova? Compagnia. Perfetto. Italy è una cosa molto semplice, perché Italy è il cibo in tutto il suo universo. Il cibo si compra, si mangia e si studia, quindi è un luogo dove il cibo si può comprare, si può mangiare, perché ci sono a Torino 11 ristorantini monotematici di reparto, ma poi c'è le aree didattiche dove si studia il cibo. Si studia sempre nel nostro sistema molto semplice. Le faccio un esempio: l'area didattica sul mangiare di stagione c'è scritto facciamoci furbi, i cibi di stagione sono più buoni e costano meno. Ma è un'operazione commerciale o un'operazione culturale? Entrambe. Vede, io nella mia parte della mia vita ho fatto il mercante, punto. Vendevo elettrodomestici, mi sono divertito molto. Ma allora raccontiamola un po' la storia di Oscar Farinetti. Oscar Farinetti nasce in Piemonte? Nasco in Piemonte in mezzo a 4 sacchi di semola, perché noi non ci chiamiamo Farinetti a caso. Mio papà faceva la pasta, mio nonno il mugnaio. Nomen omen. E quindi sono nato in mezzo. Il mio primo ricordo olfattivo è proprio l'acidità della semola. E mio papà faceva la pasta e poi si è messo ad aprire supermercati alimentari. La sua passione era il cibo e noi di famiglia siamo di estrazione alimentaristi. Però c'è stato un passaggio poi diversificato. Sì, nel 1978, qua io sono del 54, quindi avevo 24 anni, sono andato a lavorare nel supermercato grande di mio papà, che mi ha detto: ti che t'hai studiato, bake along, cioè tu che hai studiato, guarda quella roba astrusa che erano gli elettrodomestici. Era un piccolo repartino di lavatrici, di televisori, di radio, ma io mi sono immediatamente innamorato di quella roba. Vede, io in realtà quando guardavo una lavatrice vedevo una scatola bianca magica dove butti roba sporca e esce pulita. Ho sempre cercato di mettere nel commercio uno spirito un pelino più forte sul significato delle cose che vendevo. Ma ci si può innamorare di una lavatrice? Assolutamente sì, è una macchina straordinaria, magica, come le dicevo prima, che risolve il problema alle persone. Pensi, prima si lavava nei fiumi, soltanto 50 anni fa. E come fa a far innamorare qualcuno della lavatrice? Coinvolgendo le persone sui valori delle cose, tenendo sempre conto che prima ci sono le persone e poi le cose, ma coinvolgendole con armonia e facendogli capire che le cose possiamo dominarle e mai essere, dobbiamo esserne dominati, secondo me si fa un mercato diverso e più etico, se vogliamo dire, più virtuoso. Adesso, la parola etica è una di quelle da abolire insieme ad alcune altre. Beh, più da praticare che non da dire l'etica. Allora, vendere una lavatrice vuol dire fare un servizio al cliente e fargli capire che può usarla come uno strumento. Io ho sempre cercato di vivere il mio mestiere di mercante con questo tipo di funzione di utilità. Ho sempre pensato che il margine non deve essere garantito solo perché prendiamo un prodotto e lo mettiamo su uno scaffale, ma debba essere meritato. E quindi deve entrare in gioco la creatività del mercante, che ha la funzione di raccontare alla gente le cose e di raccontare come usare bene le cose per migliorare la qualità della propria vita. Questo si può fare quando si ha un piccolo negozio, un piccolo magazzino, un piccolo store in un, magari in un paese, in una città, ma quando si comincia ad avere una catena, come si fa? Nego totalmente questo concetto che del piccolo bello e del grande brutto. Si può essere piccoli brutti o grandi belli, viceversa, si può fare in qualsiasi dimensione, basta riuscire a tirar fuori la propria energia e, nel caso che diventi grande, riuscire a trasmettere la propria energia ai propri collaboratori. E allora, come è nata poi Unieuro, che è stata questa catena di negozi per elettrodomestici? Come si è sviluppata? Mi sono innamorato talmente di questa mission di diffondere qualità della vita alla gente attraverso eliminare dei bisogni e dare dei desideri che ho incominciato per negozi di elettronica. E nel 1989 ho convinto mio papà a vendere tutte le attività alimentari di famiglia per fare l'elettrodomesticaro col Pedigree. E quindi è cominciato a fondare delle unità commerciali di Unieuro. Siamo arrivati a 106. Come mai si chiamata Unieuro? Si chiama Unieuro perché mio papà, comandante partigiano della 21esima Matteotti, socialista neniano, innamorato dell'Europa, e quindi con questi suoi ideali andò dal notaio per fondare questa azienda che doveva occuparsi di alimentari. Il notaio gli chiese: come la chiamate? E lui disse Unieuro, che non c'entrava niente col cibo, ma era una risposta alla sua ispirazione dell'Europa Unita. Quindi è un nome nato così, dalla fantasia. Come vede, siamo un po' strani proprio di famiglia. E quindi è nata con prima dei negozi in Piemonte e poi si è cresciuta. Poi siamo andati in tutta Italia, siamo arrivati ad averne 106, quasi un miliardo di euro di giro d'affari, 3.000 collaboratori, una roba grandina, insomma. E quindi a un certo punto, in che giorno poi ha deciso di lasciare? Se vuole la verità, il giorno esatto è quando i miei tre figli sono venuti in delegazione da me a dirmi che non avevano mai immaginato di fare un altro mestiere nella vita che non lavorare con me. Incontri. Bentornati con noi. Stiamo parlando con Oscar Farinetti della sua avventura industriale, della sua avventura commerciale. Ci eravamo lasciati nella prima parte, faccio un breve riassunto della puntata precedente, con la creazione di questa grande catena Unieuro, 117 unità, o 117 unità di vendita, che a un certo punto ha deciso di lasciare. Diceva perché i suoi figli cosa volevano fare? Il primo motivo è questo: i miei figli arrivano da me a dirmi che avrebbero voluto lavorare con me nella vita. Questo mi ha fatto molto piacere, anche se non appartengo alla categoria di quei genitori che vogliono assolutamente che i figli facciano il proprio mestiere, ma ho pensato quel giorno che se coi miei figli ripartivo con un'impresa da zero, e se loro avessero provato le speranze, le paure, le emozioni che ci sono nel costruire un'impresa, se la sarebbero sentita più loro. E infatti questo è avvenuto. Oggi pensate che mio figlio più grande è l'amministratore delegato di Italy, l'altro di mezzo è il capo di Italy Bologna, il più piccolino sta finendo gli studi di enologia naturalmente, e io ormai faccio il chairman, non più il presidente, cioè proprio il presidente onorario, e in realtà faccio il contadino, faccio il vino. Ah, perché poi è diversificato, è entrato anche in aziende vinicole. Certo. Quindi una tradizione che si è riscoperta, diceva che era partito dalla farina. Farinetti, ed è tornato in fondo agli alimentari, quindi una passione geneticamente fondata. Assolutamente, pensi che Italy, la holding, congloba 19 società, di cui una è Italy Distribuzione, quello che tutti conoscono, ma ci sono 18 unità produttive, aziende di produzione piccole sul territorio nazionale che fanno prodotti tipici. La prima che acquistai è stato un pastificio a Gragnano, naturalmente. Quindi una filiera più produttiva, tutta certo. Basata sulla qualità del prodotto, sull'italianità, sul fatto di riscoprire una tradizione e di riscoprire anche una filosofia del mangiar bene. Sì, che è molto semplice, si può definire con tre parole. Il cibo è l'unico prodotto che mettiamo dentro il nostro corpo e quindi dobbiamo conoscerlo. Ed è incredibile il fatto che proprio noi italiani, popolo considerato evoluto nel campo dell'alimentazione, in realtà non sappia che cos'è il cibo. Pensi che abbiamo fatto un'indagine, il 60% degli italiani sa che cos'è l'ABS, cioè sanno che è una roba che c'entra coi freni. Meno del 35% degli italiani sa la differenza fra il grano tenero e il grano duro. Meno del 15% degli italiani ormai sa abbinare correttamente i prodotti alle stagioni. Ecco, quindi un'operazione culturale, dicevamo prima, che però comprende anche un'operazione industriale. Come si fa a motivare chi vive all'interno dell'impresa per raggiungere questi obiettivi, per raggiungere questa finalità di avere appunto una impostazione quasi educativa verso il pubblico? Beh, intanto il cibo di qualità, guardi, è di un coinvolgente pazzesco, perché dietro al cibo di qualità c'è cultura, c'è tradizione. Vedesse come sono belle le persone che si occupano di cibo. Guardano poco la televisione, ascoltano di più la radio, leggono i libri, perché hanno bisogno di essere educati e dedotti per occuparsi di cibo ad alto livello. E poi le dico francamente che è un po' il mio mestiere cercare di coinvolgere le persone, è una cosa che mi piace da morire. E il segreto è pensare che esistono moltissime persone che hanno più talento di te e cercarle. Ecco, ma un grande imprenditore è quello che sa valorizzare il talento dei propri collaboratori, anche a rischio di mettere quasi in difetto le proprie idee? Beh, mettere in difetto le proprie idee è il mio sport preferito. Guardi, noi di Italy adesso abbiamo fatto il manifesto dell'armonia in 14 punti, dove rimettiamo al centro, primo, il valore del dubbio, che è molto più importante del valore della certezza. Col dubbio vai avanti e ti evolvi, con la certezza resti indietro. Il valore del perdono, che è un iperdono che si fa a se stessi prima che agli altri. L'altro valore, per esempio, è il saper perdere. Noi consideriamo che perdere è bellissimo, perché mette in condizione chi vince di fargli entrare dei dubbi in testa. Beh, quindi è una filosofia anche questa. Cambiamo idea continuamente. Cambiare idea è bellissimo. Cambiare idea è bello. C'è una cosa che non cambia idea ed è un libro, Il marketing pensiero di Oscar Farinetti, che si intitola Coccodè. La gallina fa Coccodè e dice il sottotitolo: la gallina fa l'uovo e poi dice Coccodè. È lei che ha inventato il marketing. Assolutamente sì. Kotler, secondo me, ha copiato dalla gallina, è stato in un pollaio per molto tempo per spiegare il marketing. Quindi il marketing non è solo fare Coccodè, è soprattutto coinvolgere prima le fare persone. L'uovo. Il marketing è, prima di tutto, bisogna fare l'uovo e bisogna farlo insieme. Puoi farlo sapere. Poi bisogna dire Coccodè, cioè farlo sapere, ma in maniera proporzionale all'uovo. E cioè, se l'uovo è un ovetto da 4 soldi, non puoi urlare Coccodè, come se l'uovo è una grande idea, non puoi assolutamente dirlo piano. La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Oscar Farinetti, perché le piace questa canzone? Beh, la mia banda suona rock, intanto è bellissima da sé, ma poi perché la verità è così, la mia banda, cioè la banda di Italy, suona rock. Noi facciamo rock. Facciamo rock nel senso che siamo un po' trasgressivi, ma non facciamo il metallico, quello duro, quello difficile, facciamo questo qua, un bel rock semplice, rock popolare. Molto pop. Molto pop nel senso di popolare. Sì. Allora, Italy, Torino, Bologna, ma anche Tokyo. Ne abbiamo tre in questo momento. Tre a Tokyo. E siamo partiti dal paese più difficile, dove c'è una concentrazione di difficoltà in mani. Primo, il popolo giapponese, che è il più colto al mondo rispetto al cibo, perché ha questa tradizione millenaria e poi perché si domanda sempre che cosa sta mettendo nel proprio corpo ed è fanatico nella conoscenza. Secondo, perché è un paese da costi mostruosi. E terzo, perché proprio la cultura è completamente diversa dalla nostra, ma mio papà mi ha insegnato di incominciare sempre in salita. Cosa vendete di più a Tokyo? Il prodotto veniva di più la pasta, e questo mi fa molto piacere, la pasta di Gragnano, quella che produciamo noi, a lentissima essiccazione, 48 non gradi. Non facciamo troppa pubblicità, comunque è buona. Sì, ma poi sa, di Gragnano c'è tante marche, non ho detto la marca, non lo farei mai. E state aprendo a New York. Ecco, questa è la scommessa della nostra vita, lì siamo fuori di testa, siamo rock proprio fuori di testa, perché apriamo 7000 metri quadri, pensi, nel cuore di New York, dove le due strade di New York più conosciute, cioè la Quinta e la Broadway, si incontrano. Si incontrano in un solo punto, che è dove c'è il Flat Iron Building, quella costruzione fatta a ferro da stiro. Noi apriamo di fronte 7000 metri quadri, cioè prendiamo il concetto di Torino e lo facciamo uguale nel cuore di New York. 11 ristoranti monotematici di reparto, 11 aree didattico-emozionali, sale per convegni, sale per fare le scuole, eccetera. E anche lì tutti italiani. Alimenti italiani. Purtroppo no, o per fortuna no, adesso vediamo perché, come lei sa, non si può importare la carne negli Stati Uniti. Certo. Gli Stati Uniti sono uno dei paesi più protezionisti al mondo e più comunisti al mondo, ho scoperto in questi giorni. C'è magari qualche McDonald's lì vicino? Beh, ce n'è tanti, McDonald's a New York credo ce ne siano 3000. Perché in Italia c'è questa operazione, anche il Ministero dell'Agricoltura sta appoggiando McDonald's, che ha fatto McItaly, un panino tutto italiano, lo vede come una concorrenza? No, assolutamente no. Ho visto con grandissimo stupore il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole a McDonald's, perché usa prodotti italiani. Mi sono domandato, sicuramente il ministro, prima di dare il patrocinio, avrà chiesto a McDonald's che animali sono, da chi sono allevati in Italia, a che prezzo vengono pagati gli allevatori, come vengono pagati i collaboratori dipendenti di McDonald's. Penso che il Ministero abbia fatto uno studio molto forte su questo. Io, Italy non ha il patrocinio del Ministero, probabilmente perché non ci siamo mai ricordati di chiederlo, non sapevo neanche che si dovesse chiederlo, immaginavo che decidessero loro di darlo. Spero che dopo aver dato il patrocinio a McDonald's a noi diano una medaglia d'oro. Al valor di qualcosa. Perché comunque in Italia è tutto italiano quello che vendete. Noi abbiamo... La nostra griglia è così composta, il 50% dei prodotti in vendita e in ristorazione sono del territorio, cioè sono della regione dove c'è Italy, questo è molto importante. Io non sono un fanatico del chilometri zero, tuttavia sostengo che è meglio privilegiare i prodotti del proprio territorio. Un 45% è il meglio dell'Italia, delle altre regioni italiane, e un 5% è il meglio del mondo. Perché io sostengo che qualche volta, se ci viene voglia di mangiare... Forse il salmone è meglio norvegese che non italiano. Il salmone pescato sicuramente c'è, perché è quello lì, perché in Italia non si pesca il salmone. Infatti. Ma se ho voglia di mangiare un buon foie gras qualche volta, o di bere uno champagne, non è la fine del mondo, o di assaggiare una fetta di amon iberico, si può fare. Vede, se si fermano... I traffici delle merci nel mondo, si fermano anche gli scambi culturali. Ecco, questi sono molto importanti, il fatto che ci siano le persone che si muovono, che sappiano portare delle culture, che sappiano portare un modo di vivere, che sappiano portare anche un messaggio di simpatia, di cordialità, in fondo di solidarietà. Assolutamente sì. A proposito di questo, mi viene in mente di dirle che da Italy lavorano 61 extracomunitari da Italy a Torino, che sono oltre il 25% dei collaboratori da Italy, sono meravigliosi, integrati benissimo e anche meglio pagati, perché fanno i lavori che gli italiani non vogliono fare, che sono fare il panettiere, bisogna alzarsi alle 4 del mattino, fare il macellaio, quindi è giusto che guadagnino di più di uno che fa il marketing. Quindi sono anche lavori in cui si guadagna di più, non solo si guadagna di meno, sono lavori in fondo in cui c'è la passione di chi ci lavora e non conta tanto il colore della pelle. Allora, le dico una cosa a cui noi teniamo molto. Tutto quello che guadagniamo praticamente lo reinvestiamo in questa maniera, su tre filoni. Primo, la cultura. Noi quest'anno abbiamo fatto 2200 bambini, corsi di educazione alimentare gratuiti per le scolaresche. Insegniamo le stagioni, a giocare sulle stagioni, quindi si imparano. Corsi per pensionati dal titolo Piatti ricchi con ingredienti poveri. Insegniamo, per esempio, che nel Mar Mediterraneo ci sono 173 tipi di pesce, ma noi mangiamo sempre i soliti 5. E quindi insegniamo come fare un gran piatto con una buga. Poi sui nostri collaboratori. Noi diamo ogni anno, dall'inizio, perché abbiamo guadagnato, speriamo di continuare a farlo, la quindicesima, che è uno stipendio in più a tutti, perché ce lo siamo guadagnati. Infine, sui contadini. Cerchiamo di pagare di più il prodotto di qualità. Ecco, una sua recente intervista ha come titolo "Tutto è realizzabile se c'è armonia". Possiamo dire che questa è la filosofia di fondo di Oscar Farinetti? Assolutamente sì. Guardi, l'armonia è un valore superiore alla felicità, perché è un piacere proattivo che puoi fare solo in comunità con gli altri. Se riesci, questo è il nostro vero obiettivo. Spesso noi confondiamo il mezzo per raggiungere l'obiettivo con l'obiettivo, no? Fare soldi può essere un mezzo per raggiungere l'obiettivo che essere più felici, ma spesso si confonde, l'obiettivo diventa fare soldi e non e guardi, ci si ferma lì. È un periodo che conosco un sacco di ricchi e ricchissimi infelici. E la felicità va soprattutto condivisa, e stamattina probabilmente abbiamo condiviso un po' di modo felice e ottimista di guardare in avanti con Oscar Farinetti, che ringrazio, così come ringrazio Anita Panizza in redazione, Fabio Cantadori in regia. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Grazie a chi ci ha ascoltato, buona domenica.